questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. So much fun, but I lost the reason after all is said and done. But are you still having fun? Then how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Questa la scelta Franco Piantaneda, si intitola, Roberto Scaltritti in regia naturalmente, Are You Still Having Fun? Perché? Perché nel weekend i ragazzi ci hanno fatto divertire, ce l'hanno messa tutta per farci divertire. La Juve asfalta il Napoli e il Napoli si lascia asfaltare dalla Juventus, due notizie al prezzo di una. La Roma si lascia incartare dal Sassuolo. Moratti e Gagliani lasciano e basta. Poi ovviamente ci sono gli ultra della Nocerina che stravincono il derby con la Salernitana e oggi, come era normale attendersi, stanno urlando tutti a pieni polmoni, poi ve lo dico, urlano gli ultra della Regina, non abbiamo minacciato di morte nessuno, urla Lotito che non so se abbia già finito di urlare con Sky, che dice che hanno sbagliato a comporre i gironi, vabbè. Da questore di Salerno da 20 Daspo agli ultra, figuratevi come sono scioccati questi 20. Abete senza anticorpi è meglio non giocare, il procuratore di Nocera Izzo non pensino di farla franca. Vabbè. Sempre oggi Gagliani a pranzo da Berlusconi, ormai ospite fisso ad Arcore, si parla di Allegri, meglio mandarlo via subito o mandarlo via tra un po'? 800 24 00 24, numero verde. Mi sembra che poi c'è anche Marquez in Spagna, l'unica cosa seria in questo momento in Spagna sono i piloti del moto mondiale, perché il campionato, vabbè, Real segna i soliti 5, il Barcellona ne fa 4 e il campionato spagnolo è questo. Comunque, Pierluigi Pardo, ciao. Hola, come va? Hola. Ti sei divertito, eh? Ma sì, devo dire che Inter-Livorno, no, vabbè, è stata la partita che ho seguito assieme a Juve-Napoli, non è che proprio mi abbia entusiasmato, anche se poi ci sono stati questi due momenti molto emozionali, molto emotivi, uno per Moratti e l'altro per Zanetti, che sono stati sicuramente molto interessanti. Senti, no? Mi ricordi che poi ti faccio sentire a te e a tutti quanti una canzoncina su Jonathan? Sì. Che è partorita dalla mente di un sanissimo, di un tifoso, vabbè. E per il resto, insomma, è stato un weekend importante di campionato, era ovvio che lo sarebbe stato perché c'era uno dei rari scontri diretti fino a questo momento, è stato stravinto dalla Juve, un Conte abbastanza nervoso a fine partita, abbastanza incomprensibile perché, insomma, se uno è nervoso quando vince 3-0 c'è da chiedersi veramente. Ma Conte ormai è nervoso problema, sempre, però insomma, in campo la Juve ha dato una dimostrazione incredibile di forza, sì, di proprio di feroce agonistica, quella però, che spera. Anche qui Pier sono tutti io ho già ricevuto 40 messaggi su ti piace vincere facile, fuori gioco. Sì, queste cose. Poi se uno guarda la partita dice ok, il primo gol in fuori gioco, no, non facile da prendere, poi dico, ci sono quelli che dicono in dubbio pro Juve, però se tu guardi la partita la Juventus ha massacrato il Napoli. Sì, sì, beh, insomma, il verdetto del campo è chiarissimo e arriva oltretutto dopo l'inciampo della Roma, quindi dà ancora maggiore dimostrazione di una cosa che io penso e che a maggior ragione penso dopo ieri sera, cioè che delle tre la Juve è la squadra più attrezzata, lo dicevo quando era meno 5, lo ribadisco adesso che è meno 1. Detto questo, ci sono poi presupposti per un campionato aperto ed equilibrato, insomma non penso che adesso bisogna farsi prendere non penso che il Napoli sia fuori gara o la Roma sia improvvisamente bollita, però sicuramente la Juve in queste ultime 4 partite, perché sono 4 partite che vince consecutivamente senza subire gol, ha ritrovato il marchio di sempre che in Italia dovrebbe bastare. Parlare del Genoa, domanda Enrico. Genoa grandissima in striscia positiva, esattamente il contrario della Sampdoria. Altro tema, un uomo per 2 panchine è Mihajlovic, anzi per 3, perché attuale cittadino della Serbia, però viene dato come possibile sostituto di Petkovic alla Lazio, ma non continuo a non capire perché Petkovic deve essere mandato via, come possibile sostituto di Deglio Rossi alla Sampdoria, e Deglio Rossi mi sa che salta. 800 24 00 24, numero verde. Asfaltare, che brutto termine. Poi l'atteggiamento di Conte, ci si lamenta delle violenze degli ultra, date il buon esempio. Ma cosa vuol dire questo messaggio su Twitter? Buddy. Anche Buddy a me non piace. A me non piace neanche Buddy, e sono contro la violenza negli stadi. Asfaltare è... Asfaltare si può dire, dai, non c'è niente di... Mamma mia. Vogliamo dire battere in maniera... Come posso dire? Battere in maniera sonora. A me suona male, preferisco asfaltare. No, e poi in generale, in assoluto, io su questa cosa qui, no, che quando ci sono degli atteggiamenti da parte dei protagonisti un pochino al di sopra delle righe, si dice che possono accendere la violenza negli stadi, ecco, io non ci sto a questa cosa. No, poi io in neanche. Assoluto l'ho sollevato io l'argomento e lo ribadisco, cioè secondo me ci sono delle televisioni che pagano, ma non è che pagano, cioè non è che sto difendendo l'interesse di Sky o di Mediaset ad avere le voci degli allenatori pochi minuti dopo il fischio finale. Al di là del danno economico procurato in termini di ascolti, c'è un danno alle persone e ai tifosi che magari vorrebbero sentire il punto di vista di un allenatore e non sentirlo a 00:20 come è successo ieri con Benitez e con Conte. Quindi vorrei che non sembrasse una rivendicazione, diciamo, del sindacato giornalisti, ecco, perché non ce ne frega niente di quello. È proprio il fatto che un pochino più di disponibilità, come c'è per esempio negli sport americani e come c'è per contratto in Champions League, quando sappiamo che non ci sono silenzi stampa, tu per contratto il giorno prima della partita devi parlare, dopo la partita devi parlare, e c'è il delegato UEFA che se non parli ti prende per le orecchie e ti porta davanti alle telecamere, è normale. Il calcio decade come decade la politica, e soprattutto mostra che c'è un'intera porzione di questo paese in cui la legalità non esiste più, in cui non esiste lo Stato e non esiste nemmeno la possibilità di fare sport. Lo sport dovrebbe essere il veicolo di fratellanza. Oggi in quelle terre, soprattutto in quelle terre, è un veicolo di divisione e di violenza. Al di là delle colpe serve un rimedio, e il rimedio non può essere che un cenno, una risposta decisa e immediata sia da parte delle autorità sportive. Non bastano le squalifiche o i 10-20 punti di penalizzazione in un girone dove non si retrocede comunque, ma soprattutto la risposta la deve dare lo Stato. Questo era il messaggio pontificio di Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport. Oggi è il giorno, dicevo prima, degli strilli, ma anche di un po' di demagogia per quello che è successo a Salerno, quella buffonata. Penso che ci sia una cosa sola da fare in questo caso, la nocerina esclusa. Ciao. Ma proprio così. Primo provvedimento questo, poi parliamo del resto. Poi parliamo dei... andato 20 d'aspo Pierluigi Pardo, sai che paura adesso hanno quei 20 lì, sai come sono scioccati dal daspo che gli è arrivato? Vicenda brutta, ne abbiamo parlato anche a Melog prima, vicenda che ci racconta una volta in più quale sia il potere di ricatto di pochi su tanti, anche se poi devo dire che ho sentito delle voci, ad esempio quella di Malagò, sì, e anche quella di Lotito, che su una situazione oggettivamente scandalosa, perché che la pantomima organizzata sia stata qualcosa di squallido non ci sono dubbi, però insomma sulla situazione oggettiva e sulla preparazione della giornata di ieri hanno detto delle cose abbastanza forti e anche abbastanza singolari. Cioè, Malagos se la prende con la Lega Pro dicendo: sentiamolo, semplicemente... ce l'abbiamo, eccolo qui. Io sono molto, molto arrabbiato con la Lega Pro, perché questo argomento lo conoscevo a memoria, e anche se sono vittime, sono anche ostaggi, e di conseguenza è giusto adesso che si costituiscono parte civile, è troppo facile adesso dire purtroppo è successo questo. Andiamo per la cronaca, anche quindi il presidente del CONI è molto arrabbiato con la Lega Pro, il commissioner della Lega Pro Ghirelli è stato ospite prima di Simone Spezia, ha risposto così. È un anno e mezzo che stiamo intervenendo, quindi logicamente su una vicenda di questo genere bisogna tutti quanti ragionare, però se ci dicono che cosa dobbiamo fare di più e di meglio, noi lo mettiamo in campo. E quindi come risponde a Malagò? Che bisogna riflettere su che cosa si è fatto, ma dal punto di vista delle cose che sono messe state in campo, l'abbiamo messe in piedi tantissime. Dobbiamo farne di più, siamo pronti. Va bene, questo botta risposta tra Malagò e Ghirelli. Vorrei evitare oggi di fare un giorno in pretura con tutto lo sport che abbiamo visto, ma poi gli ascoltatori ovviamente dicono quello che vogliono, a cominciare da Giorgio da Prato. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. A tutti. Ciao. Ciao. Ma io no, invece volevo parlare delle prospettive, secondo me, della Fiorentina con il fortunatamente imminente rientro di Gomez, no? Perché l'assenza di Gomez, che spesso viene sottovalutata dai media, a noi è pesata in modo incredibile, perché era il giocatore che doveva far diventare la squadra meno bella ma più concreta. Qualche punto noi lo abbiamo perso, adesso fortunatamente. E voglio dire, si è visto con Totti, no? Anche la Roma, quanto sta pagando l'assenza. Allora, secondo me la Roma sta pagando tantissimo l'assenza di Totti, che è l'unico giocatore insostituibile di quella squadra, e questo è vero. Sull'assenza di Gomez non lo so, perché Rossi 11 gol, capocannoniere del campionato. La Fiorentina gioca in un modo diverso senza Gomez. Io penso che non sarà così automatico l'inserimento di Gomez in questa squadra dopo tanti mesi. Tu, Pier? No, è chiaro che qualcosa ieri l'hanno anche chiesto a Montella, però sono i famosi bei problemi, no? Questo è certo. È chiaro che la Fiorentina dell'anno scorso aveva bisogno di un attaccante come Gomez, con tutto rispetto per Toni, che comunque aveva fatto bene, si sentiva il bisogno di un grande finalizzatore. Quest'anno ha molto fisico come caratteristiche, c'è stato praticamente soltanto all'inizio, perché si è fatto male subito. Certamente Giuseppe Rossi ha trovato un suo equilibrio in una Fiorentina un po' più simile a quella dell'anno scorso, una Fiorentina che spesso riesce a prescindere da una punta centrale vera, fisica, come succedeva spesso l'anno scorso, quando giocava magari soltanto con Jovetic e con Ljajic, ma senza Toni, che magari entrava a gara in corso. Quindi è chiaro che adesso un equilibrio è stato trovato, ed è un equilibrio che si adatta molto bene al tiki-taka della Fiorentina, perché la Fiorentina gioca comunque questo calcio sul possesso palla, senza grandi punti di riferimento, quindi un attaccante sempre con la palla molto bassa aiuta, sempre con la palla a sfiorare il campo. Detto con questo, se Montella e la società tiki-taka hanno fatto un investimento di questo tipo, è perché sanno che Gomez ci sta molto bene in quella squadra, e anzi, quindi io in prospettiva lo vedo benissimo. Poi magari che nelle prime due o tre partite ci vorrà bisogno di un pochino di tempo per ritrovare un po' di equilibri, e che ci potrebbe essere qualche spaesamento per Giuseppe Rossi, questo ci può anche stare, ma penso che alla fine sia un grande recupero questo per la Viola. Certo, questo è certo, che comunque trattasi di grande giocatore, molto diverso come caratteristiche fisiche e tecniche da quelli che giocano adesso. Chiamando da Salerno, io ho l'impressione di sapere di cosa vuol parlare Francesco. Salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, ovviamente vorrei parlare del derby farsa di ieri. Niente, sono state dette tantissime cose, però io credo che la cosa più importante ieri non sia stata detta, cioè che è stata la sconfitta vera della tessera del tifoso, perché il problema è tutto lì. Cioè, gli ultras di Nocera ovviamente erano letteralmente imbufaliti, perché non avevano questo, la possibilità di scegliere a Salerno. Francesco, però questo cosa vuol dire? Se erano imbufaliti, una ragione ci sarà, cioè una ragione ci sarà per il fatto che non li hanno lasciati andare, no? Quindi allora premetto che sono tifoso della Fiorentina, e ovviamente insomma quello che hanno fatto ieri è assurdo, però voglio dire, loro se hanno fatto ciò è perché giustamente loro sono, essendo tesserati, si aspettavano di poter vedere giustamente è un avverbio che in questo caso non c'entra nulla. la tessera del tifoso a me non è mai piaciuta come strumento, secondo me lo trovo a maggior ragione inutile. Io sarei dell'idea di non puoi impedire a nessuno di andare su un altro campo, no? Però puoi evitare l'organizzazione delle trasferte della tifoseria organizzata, questo sì. Pardo? Sì, io penso che la tessera del tifoso sia un provvedimento che restringe la libertà individuale e che sia un pugno allo Stato di diritto. Sì. Detto questo, in nome dell'ordine pubblico e del non ci scappi il morto, in Italia sono state prese decisioni in questo senso. Lo dicevo anche ieri sera, a me sembra che sicuramente dei risultati ci sono stati, no? L'osservatorio sottolinea che c'è stata una netta diminuzione dei conflitti, quindi dei problemi e degli incidenti, però è anche vero che c'è stata una netta diminuzione degli afflussi negli stadi. Però mi sembra che il problema si sia spostato in questi ultimi anni, sia spostato dalla violenza pura all'interno degli stadi, che ormai non esiste più, alla violenza intorno alle partite, che secondo me è circoscritta, a un piano diverso, cioè quello degli ultra che fanno quel mestiere di professione e traggono vantaggi inopinati da questa loro posizione di forza. Quindi sono gli ultra che fanno affari, sono gli ultra che vogliono essere protagonisti del gioco, sono gli ultra che tengono in ostaggio la società. Questo mi sembra il chiaro problema, che è spostato lì. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Tante occasioni, parate di Reina, parate di... Mi hanno detto 21 centimetri di fuorigioco. E quindi? Di che parliamo? Che Reina è stato migliore in campo nonostante il 3-0? Di che stiamo parlando? Stiamo parlando che noi dobbiamo far vedere gli episodi, così come abbiamo fatto vedere. Ma l'ho già visto, 21 centimetri di fuorigioco, bravi. Il segnalino doveva avere una lente di ingrandimento e un cannocchiale per vedere questo, ecco. Allora, 21 Guns per i Guns N' Roses, uno dei miei Guns N' Roses, scusate, Green Day, uno dei miei ascolti preferiti e uno dei miei liberi pensatori, anzi dei nostri, parlo anche a nome di Pardo, liberi pensatori sportivi preferiti. Maurizio Crosetti, ciao. Eccoci, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Mi piacete molto anche voi, eh? Grazie. Forse stasera vieni anche a Tiki Taka, eh? Proprio per il nome di questa. Pur qua no. Vai a Tiki Taka. Stai attento, Maurizio. Stai attento alle imboscate di Pardo, perché lui è perfido, eh? No, noi palleggiamo alla grande. Poi, sì. E poi, quando meno te l'aspetti, ecco il lancio verso la porta. Ascoltami, a proposito di lancio verso la porta di 22 centimetri oltre quella 21 centimetri oltre quella fatidica linea. Secondo me è abbastanza sabbia negli occhi, onestamente. È vero che sempre a favore della Juventus, è vero che ci sono gli ascoltatori che dicono il primo gol è il più importante, quello che sblocca la partita, però se io guardo una partita così dico 3-0 ci sta tutto. Credo che l'impresa di demolizione bianconera, perché questo era ieri, quegli sfasciacarrozze che ci sono spesso nelle periferie delle città, anche a Torino le abbiamo, quando ero piccolo li chiamavano i cimiteri delle automobili, no? E la Juve lavora lì, la Juve prende l'avversario quando le riesce, non sempre naturalmente, ieri sera sì, e ne fa una palla d'acciaio, anzi un cubo d'acciaio, ecco. Credo che la rottamazione del Napoli ieri, senza offesa per il Napoli, grande squadra, molto divertente, molto di gran qualità, sarebbe avvenuta anche senza quel fuorigioco. Non ho il minimo dubbio, quando la Juve ha quella fame, ragazzi, è come la riunione, il congresso mondiale dei cannibali, non ce n'è per nessuno. Sì, anche se è vero, un ascoltatore invece scrive, però va bene, parlate di rabbia agonistica, di fame, di cattiveria, però guardate che la Juve gioca anche molto bene a pallone, ha ragione l'ascoltatore, Conte che insiste su questo tasto. Conte insiste su quel tasto lì perché vuole che gli si riconosca il fatto di aver trasformato una grande squadra in una squadra straordinaria, e quindi è ovvio che meno c'è merito netto tecnico e più c'è merito tattico suo, però anche lui sa benissimo di avere 4-5 extraterrestri. Certo. Siamo due, ecco, diciamo in questo momento due, Pirlo e Pogba, ma anche Tevez è abbastanza lì in quell'altra galassia, Buffon è tornato a parare, insomma. E Barzagli, secondo me, è veramente uno che non sbaglia mai. è veramente uno che ieri ha fatto una partita pazzesca. Senti, Pierluigi, invece, sai che all'ascoltatore di prima non piaceva il termine asfaltato, lo cambio, facciamo pettinato con la riga, mi riferisco al Napoli. Sì, ma da Roma, Arsenal e Juventus, qualcosa vorrà dire? Qualcosa vuol dire, anche se poi c'è stata anche Napoli-Borussia Dortmund, che può essere considerata un'eccezione, c'è stata anche Fiorentina-Napoli, al di là dell'episodio arbitrale alla fine, però insomma il Napoli ha vinto la grande partita a Firenze, quindi non è detto che per forza anche Milan-Napoli, adesso magari fa un po' più ridere perché è passato un mese e mezzo in cui il Milan è abbastanza calato in classifica, ma insomma quel Milan-Napoli le prime giornate poteva ancora sembrare una grande partita quasi alla pari. Mi sembra che le tre sconfitte sono state tre sconfitte pesanti, sicuramente, quelle con Arsenal, Roma e Juve. L'unica nella quale il Napoli avrebbe meritato sicuramente, o comunque la partita poteva girare di più, era sicuramente quella con la Roma. A Londra non l'ha praticamente mai presa, ieri è stata una partita condizionata sicuramente dal gol subito, che però c'è stato, insomma al di là poi dei 21 centimetri, da un approccio molto più feroce e molto più sicuro della Juve. C'è stato un momento nel quale il Napoli dava la sensazione di poter reagire nella seconda metà del primo tempo, ha perso l'attimo e poi la Juve, se non approfitti di quelle due o tre occasioni, ti punisce. Io credo che le due P ieri sono state veramente pazzesche. Io devo dire che Pogba è un giocatore che mi sta veramente regalando emozioni di partita in partita, perché fa delle cose con una sicurezza, con una arroganza, direbbe Walter Sabatini, che ama molto questo aggettivo, arroganza in senso buono, no? Proprio sicurezza tecnica, fiducia in se stesso, sprezzo del pericolo, che sono eccezionali. Ne ho visto un altro ieri. Lo fai solo se hai tanta confidenza, diciamo, matto, no? Se sei consapevole che impossible is nothing, senza fare pubblicità a nessuno. No, ma tantissima confidenza con l'attrezzo, con le sue capacità. C'è chi sottolinea che Max da Catania, il guardarino, dormiva, ma anche i difensori del Napoli erano sveglissimi. Anche questo Napoli, è vero. Il Napoli dietro. Anche questo è vero. Senti, ma sulla Roma, ragazzi, vi giro le tre voci anonime che leggo oggi. Uscite dallo spogliatoio, giocatori romanisti. Voce 1, siamo un gruppo di stronzi, non sappiamo tenere un vantaggio in casa. Voce 2, speriamo che gli arbitri non ce l'abbiano con noi. Voce 3, la mia preferita, ma che rigore. Anzi, c'era quello su Floro Flores, prima del gol. Smettiamola di protestare, se troviamo un arbitro più permaloso rischiamo squalifiche. Se piangiamo non cresciamo. Maurizio. Sicuramente la Roma non ha buttato via la vittoria per colpa dell'arbitro o comunque per ragioni esterne a se stessa, aveva rischiato molto in quel finale veramente incredibile, quasi inguardabile. De Sanctis ha fatto una paratona su Floro Flores, era davvero nell'aria, come si dice in questi casi, e quindi sì, la Roma deve solo capire da se stessa che quelle partite bisogna vincerle per forza, deve andare un po' a lezione di Juve, no? In questo senso, perché è quello l'approccio giusto. Nella testa, nella fame, oltre che nella classe, risiedono poi le risorse, quelle che non finiscono mai, che non devono finire nelle partite teoricamente facili, che sono quelle che fanno vincere o perdere gli scudetti, molto più degli scontri diretti. Posso non essere d'accordo, nel senso che sono d'accordo sul principio in generale. Infatti oggi certamente la Roma non deve piangere, deve invece farsi un po' di autoanalisi per evitare che succeda, però in realtà c'era stata un'occasione per il Sassuolo, un'occasione oltretutto abbastanza casuale, nata da un errore di Burdisso con un rilancio abbastanza casuale di Kurtic con la palla gol per Floro Flores. Poi per il resto dall'88esimo al 93esimo la Roma ha tenuto il pallone sempre praticamente nella metà campo avversaria, ha avuto altre due occasioni per chiuderla. Ma il problema è quello, secondo me, Pier, no, che non riesce a chiuderla. Assolutamente, è assolutamente imperdonabile. Poi c'è un concetto fondamentale che secondo me gli uomini di calcio noi non ce l'abbiamo dentro, no? Perché noi possiamo pensare al destino, alla sfiga, a tutte le cose belle e letterarie che ci vengono in mente, no? Pensa ai tifosi del Benfica che non vincono la finale, insomma, da 50 anni. Dall'anteguerra, però, sì. Ecco, però alla fine chi va in campo invece sa che il campo ha sempre una sua logica e può essere crudele, per cui le cose non succedono per caso. Detto questo, sullo specifico della partita ieri, veramente la Roma ha concesso una palla gol e il grande difetto della squadra di Garcia è stato il fatto di non aver chiuso la partita. Ha avuto quattro occasioni nitide, praticamente tutte con gli Aic, e non le ha sfruttate. La sensazione è che con gli infortuni sia una squadra col fiato un pochino più corto rispetto alle altre, per cui sta spendendo molto, cosa che avevamo sottolineato anche qualche giornata fa. È un, gioca un calcio di altissima intensità, e l'intensità sappiamo che si paga, certo, si paga in termini fisici, in termini di cartellini e poi di squalifiche, quindi questo si comincia un no, po'. Ma io penso che la sosta alla Roma vada benissimo. Intanto notizia di ora: Messi per Messi il 2013 è finito, lesione al bicipite femorale. Beh, gli daranno il pallone d'oro. Ma ovvio, il solito pallone d'oro ad onore, ma la carriera al solito Messi. Scherziamo, invece, per carità, se no la Barcellona ci sparano, però voglio dire, insomma, forse questo potrebbe essere l'anno, no, per dare un po' una svolta, visto che Ribéry ha vinto. Ribéry ha vinto da protagonista assoluto tutto quello che doveva vincere, se vogliamo pure, ridarlo, no? A me, ma io, se dobbiamo dare un pallone d'oro ad Onorem, ne darei giusto un paio a Cristiano Ronaldo subito. Questo è quello dell'anno prossimo, ma così, se il criterio è questo, facciamo così. Volevo chiedere ancora una cosa a Maurizio Crosetti. Dunque, 2014, Messi torna nel 2014, Galliani non si sa quando smette, invece Allegri potrebbe non finire il 2014. Solito pranzo in trattoria ad Arcore, eh? Sì, per la verità, dalle notizie che trattano potrebbe non finire nemmeno la giornata, altro che il 2013 o il 2014. Poi, per carità, tutte le soluzioni ponte sono soluzioni appunto di passaggio e anche rischiose. Inzaghi è il nome più ricorrente, potrebbe essere un Montella, ma potrebbe essere anche uno Stramaccioni, no? Il rischio del debuttante che arriva dalle giovanili e che ha un passato, nel caso di Montella e Inzaghi, grande in campo, nel caso di Stramaccioni no, ma insomma è un rischio di incenerimento, ma è anche un rischio, come dire, che qualche volta i presidenti decidono di correre. Poi può darsi invece che Galliani riesca a difendere Allegri ancora per dicendo l'ultima andiamo volta. Via insieme. Potrebbe andare anche così, però certo che Galliani e Allegri sanno, leggendo la classifica, che quella classifica è pressoché indifendibile. Dunque, scopro ora che tra i vari crimini di cui siamo certamente colpevoli io e Pardo saremmo anche dei negazionisti, perché voi negate Calciopoli e le inchieste del giudice Guariniello, per cui siete anche ipocriti, perché i gobbi in Europa fanno quasi sempre cilecca, domanda un ascoltatore. Vabbè, Francesco Salerno, buongiorno. Buongiorno, io sono tifoso del Napoli, però a Milano ci gioca meglio, lui ha giocato meglio, però tutte le parecchie vittorie della Juve, vedi chi è Juve, Torino Juve, Napoli Juve, c'è sempre un zambino favorevole dell'arbitro, sia esso Mattorelli, sia esso Bandi, sia esso Rocchi a Spegnamento. Se ci stava, non ci stavi, è un fuori gioco. Poi si vuole fuori del Napoli, non si dà, perché contro la Juve non si dà niente. La Juve ha meritato il Grinche. Ha meritato. Però, ma lei non crede che si costruiscano in questo modo dei comodi alibi per tutti, Benitez? Benitez, tra l'altro, bravissimo a non parlarne mai, No, io ammetto che la Juve è gli abili sono delle favorite. E ho capito, va bene, ma il Napoli ieri ha giocato male, è stato battuto nettamente dalla Juventus. Poi possiamo polverizzare ogni partita in 100.000 episodi, perché siamo bravissimi in questo. Il quadro però dice, al di là del singolo mosaico del tassello, il quadro dice che la Juventus ha stravinto con il Napoli ieri. E infatti Benitez è stato bravissimo a toccare altri argomenti, ma non questo. Invece a Maurizio Crosetti volevo chiedere di questo putiferio enorme che sta nascendo lì a Salerno. Oggi è il giorno in cui strillano tutti, Maurizio, ma questo lo sapevamo già. Soluzione mi sembra Nocerina via dal campionato oggi, no? La prima soluzione da fare è questa. Poi possiamo riflettere su molte altre cose. Non c'è dubbio. E immaginati come sono impressionati dei 20 Daspo i tifosi che li hanno presi. Fanno la collezione, secondo me li appendono in camera. Sì, sono lì, si sentono i loro denti che battono e tremano fin qui, indubbiamente. Non gliene frega niente, il Daspo è ridicolo come provvedimento. Qui siamo di fronte a un episodio di criminalità organizzata, diffusa, gravissimo, e anche a una resa totale da parte non solo dei giocatori e della Nocerina, ma o della Lega Pro, ma insomma in qualche maniera di una parte della società civile che in questo modo si arrende ai violenti che vogliono comandare. E sarebbe stato molto più giusto e anche onorevole ammettere di aver paura e raccontare senza timori la propria impossibilità, senza andare in campo, dunque a giocare a giocare la partita senza andare in campo. Però ci hanno provato, da quello che mi risulta ci hanno provato, però poi si sono resi complici di una farsa, e da quel momento in avanti sono indifendibili, anche se invece prima di quel momento credo che questi ragazzi vadano capiti, perché, ripeto, ricevere certe minacce in certi contesti, è brutto dirlo, però è così, non è uno scherzo. Quindi se ti dicono t'ammazzo, poi magari ci credi anche, e quindi insomma, prima di giudicare totalmente in modo negativo quei ragazzi, che dopo pochi minuti insomma sono stati però degli attori di sceneggiata assurda, ecco, però un attimo prima della sceneggiata c'era stata una tragedia, o comunque una commedia drammatica, che poi è diventata una comica, ecco perché l'Italia è anche il paese in cui spesso saltano i confini, saltano le marcature, no? Tra i generi teatrali. È chiaro che adesso bisognerà colpire intanto i violenti, e poi comunque con quell'atteggiamento, quel comportamento, la noceria non può scamparla, non c'è dubbio. Grazie Maurizio, buon lavoro. A stasera. Ti vedo stasera a Tiki Taka. Stasera. Insieme al mio amico. C'è anche Via Zanetti, C'è anche Via Zanetti. C'è anche Rosaria Gannavo, c'è Melissa Satta, c'è Mughini. C'è Clemente Russo. A Borro, chissà cosa dice Mughini stasera. Mamma mia. Ma 21 centimetri. Digli 21 centimetri. No, digli 21 centimetri. Sono 21 centimetri, cioè. Su via. Anche... Su via. Devo organizzare una buona imitazione. Lo salutiamo Giampiero che sta male. Andrea stasera parla. Andrea. Salve Denta. Volevo parlare, se era possibile, del MotoGP di ieri. Volentieri. Lo facciamo però dopo le 15 con calma. Però lei dica intanto. Niente, volevo solo fare i complimenti ovviamente a Marquez e soprattutto a Lorenzo, perché senza di lui probabilmente le ultime gare sarebbero state di una noia mortale. Sono un tifoso di Valentino, ma io volevo avere una sua opinione sulla gara di ieri di Valentino. Anonima come tutte le altre. Qualcosa di più. Ma anch'io, ma mi aspettavo qualcosa di più anche nei Gran Premi precedenti, Valentino Rossi. Beh, però ieri Lorenzo ha fatto di tutto i primi giri per rallentare la gara. Sì, e farsi prendere da Valentino, ecco. Permettere lui, a Valentino di stare sul treno, ma non ci sta. Ma non ci sta neanche con i tempi di ieri, o non ci è voluto stare? Magari ieri non ci è voluto stare, tutte le altre volte non ci stava, quindi mi sembra che la differenza sia sottile. Ora vediamo con il cambio ai box, ma insomma io sono un po' pessimista. Pur essendo tifoso di Valentino. Giovanni Milano, buongiorno. Caro, buongiorno. Buongiorno. Sono andato a vedere una bella partita ieri, che era Genoa-Verona. Sì. Mi è piaciuto molto in campo, primo tempo particolarmente per il Genoa, io sono genuano. Mi è piaciuto molto meno tutto il contesto che c'era intorno allo stadio, nel senso una città parzialmente blindata, con percorsi obbligati di viabilità e tutto il resto. Io vengo da Milano, sono genuano, ho visto i veronesi arrivare in autostrada, eccetera. So che, e poi che è stata una giornata difficile, città bloccata per l'arrivo dei tifosi del Verona. Purtroppo Giovanni, la normale cronaca che dobbiamo raccontare lunedì, quindi perché questa è. Invece, per tirare sul morale di Pierluigi Pardo, che poi deve andare a preparare Tiki Taka, voglio farle sentire una canzone, che è questa. Senti. Geniale, falla sentire a Zanetti stasera. Ma capitano, tu non ce l'hai una canzone così. Hai giocato 846 partite, ma non sono state abbastanza per meritarti un brano così di livello, veramente eccezionale. Miracoli di Mazzarri, miracoli di questa stagione in cui l'Inter ha cambiato presidente, ma ha cambiato anche anima. Scatenata d'inferno, prima dentro, vinca il migliore, anche il titolo mondiale, andiamo! Lorenzo. Partito bene Lorenzo, male Marquez Lorenzo ha risucchiato Marquez nella prima fase dell'accelerazione. Dentro, dentro un'altra volta, Pedrosa, c'è spazio per Lorenzo. Stavolta la carenata c'è, Lorenzo di nuovo davanti a Pedrosa. Lorenzo dentro, le sue ruote davanti a quelle di Marc Marquez, che in questo momento rimane comunque campione del mondo. Lorenzo intanto di nuovo davanti. Che bella gara! Le bandiere con il numero 93 pronte ad agitarsi al cielo, probabilmente anche quelle con l'effigie della Lorenzo's Land. Se Marc Marquez tra qualche istante, tra qualche decina di secondi potrà essere definito urlando il campione del mondo, questo ragazzino che a suon di sorrisi e di pieghe ha conquistato il mondo, ha conquistato le piste, ha mangiato gli asfalti, ha divorato gli avversari. Il caproncito c'è, Marc Marquez, campione del mondo, bravo! Sembra pelle d'oca questa copertina su Marquez, straordinario ovviamente, ma io continuo a pensare che Jorge Lorenzo, tutti in piedi, abbia combattuto come un demonio, veramente. Credo sia stato il miglior mondiale di Jorge Lorenzo. Credo che questo mondiale per Lorenzo sia stato un'impresa. Vinto due gare di Marquez anche ieri. Cosa poteva fare di più, secondo voi? Lo chiedo a voi. Un pilota come Lorenzo, cosa poteva fare di più? Allora, secondo quanto fa sapere Mediaset, l'allontanamento di Massimiliano Allegri pare sia imminente, quindi il Milan potrebbe oggi licenziare Allegri, cambiare allenatore. Non si sa, non è chiaro se Filippo Inzaghi o Filippo Galli, perché questi sono i due nomi che sono stati fatti per eventuale sostituzione di Allegri. Intanto da Napoli, da Torino, da tutta Italia arrivano diverse prospettive della moviola, perché circolano addirittura due inquadrature, due diverse letture della moviola. Secondo una, Llorente sarebbe in fuorigioco di quei famosi 21 cm su cui molti ascoltatori fanno dell'ironia pensando a Rocco Siffredi. Secondo altri invece Guardarini avrebbe visto giusto, perché invece di mettere inquadratura si vede il giocatore di spalle. Insomma, allora, come diceva giustamente Piantanida prima, come mi diceva, ma immaginati se ci fosse stata la moviola in campo, saremmo qua ancora oggi a giocare Juventus-Napoli, sarebbe durata tutta la notte e non saremmo ancora convinti, quindi saremmo lì a fare il processo alla moviola in campo. Vi rendete conto della follia? Fabio Salerno, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Buonasera, ciao, grazie per la convocazione. Grazie a te. Carlo, niente, ti annoio sempre con questo derby Salernitana-Nocerina, che ormai è l'argomento del giorno. Ma no, ma è l'argomento del giorno, è bello sentire le vostre opinioni. Grazie, no, io ero allo stadio perché io lavoro fuori, lavoro a Perugia, quindi sì. Immagina quanto sono arrabbiato, perché ogni 15 giorni, quando gioca la mia squadra del cuore, scendo da Perugia per andare allo stadio. E niente, si è detto di tutto, io ti butto lì un po' di carne sulla brace e mi dai la tua opinione. Sì. Allora, in primis, vabbè, ovvio che i tifosi della Nocerina hanno minacciato i giocatori, poi se i giocatori hanno fatto bene per paura o non hanno fatto bene. Però per tu sai che oggi addirittura c'è la voce dei tifosi della Nocerina che ha detto non li abbiamo minacciati di morte. La verità, insomma, non si saprà mai qual è. Mi dispiace che c'è sempre Salerno di mezzo, spero che i media non coinvolgano Salerno e i tifosi della Salernitana, che come me non hanno fatto nient'altro che andare allo stadio e cercare di vedere il derby. Quindi due sono gli argomenti. A questo punto, a cosa serve effettivamente la testa del tifoso? Se una persona per bene di Nocera vuole andare a vedere il derby, si tessera, dice tutto quello che dice la questura e poi manco lo può fare. E a questo punto un tuo collega di Salerno, giornalista locale ovviamente, diceva o la sua opinione, diceva: allora il questore e il prefetto hanno fatto la cosa più semplice che potevano fare, non fanno venire i tifosi, così sicuramente non ci sono casini, così sicuramente non c'è niente. Allora hanno fatto la cosa più, allora a cosa serve la prefettura, allora a cosa serve il questore se non vogliono fare il loro lavoro? No, questa, allora, è la prima. Fabio, no, sì, va bene, ma vai con la seconda. La seconda è: cosa pensavi tu delle dichiarazioni di Mauro, il quale ha detto che per lui la Serie B e la Serie C sono campionati assolutamente inutili e che bisognerebbe fare un campionato di Serie A e poi riserve e giovanili? E questa dichiarazione contro la Lega Pro e quindi contro un tifoso come me, poverino, che c'ha la squadra in Serie C e che sarà obbligato a tifare solo squadre super, no, ma non, super forti. Sai, Fabio, non è questione, secondo me una riforma dei campionati è indispensabile, anche perché Serie B, Lega Pro eccetera sono campionati enormemente costosi, sono campionati che, nei quali sono, non dico abituali, ma sono frequenti episodi, non come voglio dire così eclatante, però queste cose sono meno monitorate, sono meno difficili da prevedere, da controllare. È un discorso molto ampio quello della riforma dei campionati, una revisione dei campionati però sarebbe auspicabile, perché ci sono molte squadre che non ce la fanno più, gli stipendi non vengono pagati, eccetera eccetera. Quanto al primo punto, la tessera tifoso per me non serve a nulla. Io sono, l'ho detto molte volte, lo ripeto, sono per il tifo disorganizzato, cioè non mi piacciono i tifosi organizzati, non mi piacciono i treni speciali, i tifosi scortati, non mi piacciono tutte queste cose, quindi io sarei per la libera circolazione dei tifosi per bene e per la gabbia per tutti gli altri che sono professionisti del tifo, che è gente che lo fa per mestiere, perché sono malavitosi, no? Comuni che di mestiere fanno i tifosi e lucrano sulla pelle della società e sulle cose che conosciamo, no? Trasferte, biglietti, scommesse, insomma hanno in mano un arsenale di strumenti attraverso i quali fanno denaro in maniera illecita, naturalmente. Giuseppe Roma, buongiorno. Gente, grazie per l'invito. Giuseppe, posso farle sentire Allegri quello che ha detto ieri? Certamente. Perché sta per arrivare quella telefonata. Certamente. Se la società riterrà opportuno che la squadra abbia bisogno di un altro allenatore, mi avvertiranno. Cosa dice? Parte la telefonata? Sì, anche perché poverino Allegri non ha tutte le colpe, insomma, gli hanno depauperato la squadra. Io volevo fare soltanto un intervento a favore del mio Napoli, sono un tifoso napoletano avvelenatissimo, ovviamente la Juve ci ha asfaltati ieri, lezioni di calcio. Arbitro correttissimo, stupidaggini sul fuorigioco che sul rigore, ma fondamentalmente il problema è un altro: noi abbiamo un campione che ama, che ogni volta che c'è una partita importante puntualmente la cicca. Ma sai che comincio a pensarlo anch'io? Volevo sapere la sua opinione su questo, perché ripeto, ieri noi abbiamo avuto una lezione di calcio senza se e senza ma, con un arbitraggio assolutamente corretto, nulla, ripeto, l'arbitraggio, nulla, insomma, secondo me non lei ha ragione nel dire, anche enfatizzando i toni, l'arbitraggio in fondo ha sposato poco nel quadro di una partita che la Juventus ha dominato. Quanto ad Hamsik, sa che comincio a pensarla come lei, ma lo dice la cronaca, quando la partita è calda, è importante, è davvero così ad alto livello, Hamsik tende a sparire. Massimo Verbagna. Pronto, buongiorno. Complimenti. Buongiorno, grazie. Io volevo solo intervenire per dare la mia testimonianza. Ieri sera ero a vedere la partita a Torino, tra l'altro avevo come ospiti degli amici di Napoli, eravamo nel settore dei distinti e a un certo punto c'è arrivato da parte della tifoseria ospite addosso di tutto, nel senso, per tutto intendo palloncini pieni di escrementi. Sì. E la persona che stava di fronte a me addirittura si è preso un rubinetto in testa di uno di quelli che è stato preparato lì in ospedale. Allora la domanda era questa: ma visto che, come diceva lei prima, c'è la tessera del tifoso, noi tutti abbiamo dovuto fare la tessera del tifoso eccetera, Tessera di quei tifosi dov'è? Esatto. Stai dicendo, no? Sì, perché il discorso è: ieri mio figlio abbiamo dovuto lasciare fuori il tappo della bottiglia di plastica, certo, perché certo. Si tirava il tappo. Certo. Giocatori. E loro portano dentro qualunque cosa e se non trovano di meglio spaccano i cessi e te li tirano in testa. No, ma hai ragione, Cioè la tessera, allora ditemi dov'è la tessera di quei tifosi. Adesso hanno la tessera, ditemi chi sono. Hai ragione. Esatto. non c'è molto da aggiungere, hai solo ragione. E domandiamo insieme: allora, chi sono quelli che ieri lanciavano i cesti sulla testa di quelli che gli stavano accanto? Fateci i nomi, trovateceli, fateceli vedere. Grazie a Franco Piantanida, Roberto Scaltritti, ci sentiamo domani alle 2. Oggi Carlo non ha mai pronunciato il nome di Mario Balotelli.